Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buon inizio settimana a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. La settimana parte molto male per i mercati finanziari internazionali, ormai non fa più neanche notizia, però già stamattina il segno meno c'è di nuovo ovunque ed è particolarmente penalizzata dagli investitori Milano, che sta perdendo il 2,81%. Poi vi racconterò un po' qualche dettaglio in più rispetto a questa giornata finanziaria, giornata di borsa, giornata di mercato, ma oggi manteniamo il nostro punto di osservazione sui nostri investimenti. E parliamo di un modo forse poco conosciuto, preso in considerazione non frequentemente da parte dei risparmiatori delle famiglie italiane per effettuare appunto interessanti acquisti ed investimenti nel settore immobiliare, almeno fino ad ora, perché come vedremo c'è una tendenza che vede questo istituto del quale parleremo oggi in forte crescita. Si tratta della vendita della nuda proprietà di un immobile, di un appartamento, di un edificio. Spesso si tende ad escludere a priori le offerte proposte con questo tipo di modalità, eppure sono tante le situazioni familiari in cui può risultare un buon investimento. Pensiamo ad esempio alle persone anziane, alle coppie di persone anziane senza eredi che alla loro morte, se non hanno disposto diversamente attraverso un testamento, vedrebbero i loro beni sottratti, incamerati dallo Stato. E dall'altra parte possiamo anche immaginare una coppia più giovane che vorrebbe acquistare una casa per il futuro, per i propri figli, ma non può permettersi questo investimento in questo momento perché i prezzi di mercato per certe fasce di reddito sono ancora fuori portata. Il portale immobiliare.it ha scattato qualche giorno fa una fotografia molto interessante della tendenza dell'ultimo anno in Italia. Si intravede in questa foto, anzi si vede molto chiaramente, un aumento del 10% delle compravendite appunto con l'istituto della nuda proprietà, con centinaia di offerte online di vendita, anzi non di compravendite, centinaia di offerte. Le offerte sono in crescita di circa il 10%. Vista quindi la diffusione crescente, oggi vogliamo fare il punto su questo istituto, come si fa ad attivare questa procedura, chiamiamola così, quali sono i meccanismi per calcolare anche gli sconti che rendono convenienti queste transazioni rispetto ai prezzi di mercato e gli accorgimenti da tenere sempre presenti per non correre rischi. Intanto ringrazio e saluto per essere da noi a Salva Danaio Carlo Giordano, amministratore delegato del gruppo immobiliare.it, bentornato, buongiorno. Buongiorno. E naturalmente abbiamo bisogno anche della consulenza professionale di un notaio, Gabriele Noto, consigliere nazionale del notariato con delega alla comunicazione. Notaio Noto, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, per tutte le persone curiose sul funzionamento della nuda proprietà, 800 24 00 24, il numero verde al quale ci potete chiamare per intervenire in diretta. In alternativa potete scriverci al 349 238 6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Piccolo approfondimento di borsa. Giornata storta, la settimana parte proprio con il piede sbagliato. Abbiamo un calo di Parigi del 2,36%, Francoforte perde il 2,47%, Londra perde l'1,90%, adesso mi è sparita la Spagna, ma il listino iberico perdeva circa il 2 punti percentuali, Milano meno 2,86%. Cosa succede stamattina? C'è l'imbarazzo della scelta sulle notizie che non confortano per niente il mercato. Allora, intanto il debito pubblico, sempre preoccupante. In Europa, come vi dicevo nel giornale radio, si sta facendo larga l'idea che a questo punto è non più rinviabile l'appuntamento con le euro obbligazioni come strumento per attenuare la crisi del debito, ma chissà se si troverà un'intesa politica su questo nuovo strumento di tenuta del debito pubblico europeo. Stamattina preoccupa di nuovo la situazione della Francia, un nuovo monito di un'agenzia di rating Moody's che ha detto che comincia ad essere preoccupante l'incremento dei tassi sulle obbligazioni francesi, come sapete oltre il 200 punti base lo spread fra gli OAT, i titoli decennali francesi, appunto il Bund tedesco, e questo secondo Moody's fa rischiare la Francia di perdere la AAA, ma come sapete appunto da parte dell'agenzia di rating la Francia è ormai sotto osservazione da diverse settimane. Ci sono poi le elezioni spagnole, risultato elettorale, la schiacciante vittoria della destra e la Spagna appunto però non è apparsa particolarmente convinta da questo risultato elettorale, perché anche in questo caso i rendimenti dei titoli decennali spagnoli è tornata sono ritornati a salire intorno al 6,4%. In tutto questo, per non farci mancare nulla, sono ritornate preoccupazioni dagli Stati Uniti. Perché? Perché si sta avvicinando la data di mercoledì, giorno in cui la supercommissione organizzata dal Congresso americano per studiare tutte le strade per far risparmiare al bilancio pubblico americano 1.200 miliardi di dollari, non ha trovato nessuna ricetta per portare a casa questo risparmio, e quindi questo porterebbe sulla strada di un fallimento della missione di questa commissione, come stamattina anticipano alcune edizioni online della stampa americana, e dunque preoccupazione anche da questo versante. Non ci facciamo mancare niente, vi dicevo, abbiamo anche stamattina il nuovo ribasso pesantissimo a Piazza Affari di Finmeccanica, che già la settimana scorsa ha perso più del 25%, il 30% a causa dei conti, e abbiamo stamattina anche la questione dell'indagine sugli appalti ENAV, che vede direttamente coinvolti anche alcuni esponenti di spicco del gruppo, e questo ritrascina di nuovo a ribasso il titolo, che tocca i 3 euro. Tra gli altri cali, STM portata giù da Finmeccanica meno 4,7, ex Orgala, sia Fiat meno 4,53, Saipem meno 4, TOTS meno 4, Telecom meno 4, Fiat SPA meno 4. C'è qualche titolo positivo, ce ne sono due: Impregilo più 0,5, Popolare di Milano più 0,29%. Poco fa c'era anche Mediolanum, che dice, ma insomma è meglio che mi accodo agli altri, e adesso anche questo titolo perde lo 0,07%. Direi di lasciare la borsa, perché ne abbiamo parlato anche fin troppo, per non deprimerci ulteriormente. Parliamo invece dell'investimento nel mattone, che è quello che comunque continua a piacere sempre molto alle famiglie italiane, e vediamo come si può investire sul mattone attraverso l'istituto della nuda proprietà. La crisi non sembra far passare di moda il mattone, che resta per gli italiani un bene rifugio per eccellenza, ma non può non influire sulle tendenze del mercato immobiliare. Nell'ultimo anno, ad esempio, sembra essere tornata in voga una forma di compravendita solitamente poco conosciuta e presa in considerazione: la vendita della nuda proprietà. I dati del portale immobiliare.it registrano un incremento di circa il 10% rispetto all'anno scorso, con centinaia di offerte pubblicate online con questa modalità, che permette appunto di spogliarsi della proprietà dell'immobile assicurandosi un introito, mantenendo però l'usufrutto della casa, cioè la possibilità di continuare ad abitarci. Si tratta mediamente di immobili di livello medio-alto, e le offerte si concentrano in particolare nel centro-nord, con un picco nelle grandi città e un record per la città di Roma. A quanto risulta dai dati, i più giovani tra coloro che vendono hanno 65 anni e sono moltissimi gli ultra-ottantenni e ultra-novantenni. Dall'altra parte deve esserci un acquirente che non ha la necessità di abitare immediatamente l'immobile e che punta ad un investimento di lungo periodo. L'attesa dura degli anni, fino alla morte dell'usufruttuario, ma è compensata dalla convenienza, con prezzi inferiori fino al 40-50% rispetto alle quotazioni di mercato. Naturalmente il calcolo dipende da vari fattori, e lo sconto è inversamente proporzionale all'età di chi vende e che, pensando agli affari, metterà da parte la superstizione. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Prima di cominciare la conversazione con Carlo Giordano, amministratore delegato di immobiliare.it, e Gabriele Noto, consigliere nazionale del notariato, volevo segnalarvi che oggi Le Sole 24 Ore del lunedì pubblica uno speciale casa, fisco e condominio. Visto che di casa parliamo, vale la pena segnalarvi anche questa iniziativa editoriale particolarmente approfondita. Ci sono tutte le iniziative possibili, probabili, del nuovo governo Monti, che potrebbero coinvolgere la tassazione della casa sotto numerosi profili. Si passa dalla reintroduzione dell'ICI sulla prima casa, alla revisione delle rendite catastali, dall'IMU, l'imposta municipale unificata, alla RES, il nuovo tributo unico sui servizi con la tassa rifiuti, la rimodulazione dell'IVA e tanto altro. Insomma, ci sono tutte le possibilità in campo, e come potrebbero ricadere anche le nuove tasse appunto sulle tasche dei cittadini. Quindi tutto questo in edicola oggi con Il Sole 24 Ore. Carlo Giordano, come vi è venuto in mente di monitorare la nuda proprietà appunto nell'ambito di tutti gli annunci che compaiono sul vostro portale? Nasce da un'esigenza che strutturalmente Immobiliare ti raccoglie inserzioni anche da parte dei privati. In quanto non utente professionale le moderiamo, quindi controlliamo la qualità dell'inserzione, la tipologia di inserzione e i prezzi. era iniziato a sorgere evidenza che alcuni prezzi di alcuni immobili in vendita erano fuori dalla media di mercato. Nel senso troppo bassi o troppo alti? Bassi, troppo bassi, con sconti del 40-50% rispetto all'ore medio. Quindi vi siete detti, o qua il mercato sta crollando e non ce ne stiamo accorgendo, c'è qualche segnale che vale la pena monitorare, oppure c'è qualche cosa che non funziona. Esatto. Poi il punto finale era stato un annuncio carino, molto simpatico, da parte che iniziava con 85enne, alto, luminoso, ristrutturato, e dove nella foto, la prima foto d'immagine, c'era la foto di una... Non era un annuncio matrimoniale, esatto, diciamo, non era una persona che parlava di sé, ma di sé in quanto proprietario di un immobile. Esatto, quindi lui qualificava dicendo, in realtà sono alla fine del mio percorso di vita e presento la mia immobile in offerta. E è diventata un'espressione in realtà di una situazione attuale, dove le persone in fasce anziane, in fasce mature del loro percorso, e propongono il loro immobile e con due scopi sostanzialmente. Uno sicuramente migliorare la loro pensione, ma in realtà ancora più significativo abbiamo percepito è anticipare l'eredità ai figli, quindi aiutare strutturalmente i figli dando loro un'eredità che sarebbe giunta solo alla loro morte. Quindi non è invece un modo per sottrarre l'eredità ai figli vendendo appunto l'immobile, godendosi quello che se ne può ricavare, in realtà è proprio un anticipo dell'eredità, sì, da poter erogare alla famiglia in difficoltà. E qui ancora una volta ritorna un po' il tema della protezione sociale che si è messa in campo da qualche anno a questa parte per supportare appunto molte famiglie. Assolutamente, ne siamo, l'italiano è un risparmiatore, quindi non è la figura di lui che a un certo punto brucia tutte le sue risorse, no, è proprio l'incontrario. E strutturalmente è un istituto forte, virtuoso, e in Italia è veramente piccolo, e meno dello 0,5% delle compravendite coinvolgono nude proprietà, e però se confrontiamo con altri mercati a noi vicini, un esempio è la Francia, e c'è una zona specifica della Francia che è la Costa Azzurra, lì le compravendite nude proprietà sono oltre il 5%, 10 volte di più. E è forte perché risponde a due bisogni: di chi vendere, di monetizzare un valore del suo immobile oggi e non aspettare tempi futuri, e di compra. Per chi compra ci sono molti aspetti vantaggiosi. Ovviamente alla base non è uno che cerca casa, è una formula di investimento, quindi lui abbina due grandi valori: uno, la rivalutazione dell'immobile, compro oggi per poi possederlo più avanti, ma durante questi anni l'immobile che è mio si rivaluterà, certo, e l'altro è che risparmio molto sul prezzo d'acquisto. Certo, faremo poi un monitoraggio anche geografico per verificare appunto in Italia qual è la situazione, se c'è come sempre la situazione a mappa di mappa di leopardo, veramente ho coniato adesso un'espressione del tutto nuova, no, per vedere se magari la nuda proprietà è più in voga particolarmente al nord piuttosto che al sud, e anche come si fa a verificare se nella propria città si può trovare un'occasione anche di questo tipo. Oltre che monitorare immobiliare.it, vediamo anche magari se si può fare una ricerca di altro tipo. Gabriele Noto, il nostro notaio di questa mattina, le è capitato di recente di erogitare e quindi di fare un passaggio di proprietà per quello che riguarda un immobile attraverso l'istituto della nuda proprietà? Sì, mi è capitato di recente, anche se la memoria mi va subito a metà degli anni 80, dove per la prima volta, tra la sorpresa generale, già si vedeva proprio nella zona vicino a dove c'è la sede della vostra radio, le prime offerte via Washington, quelle zone lì, le prime offerte fatte a persone anziane per acquistare la nuda proprietà. Tutti i punti che sono stati segnalati sono ben segnalati e molto corretti, perché effettivamente le esigenze, che poi adesso potremo anche mettere a fuoco singolarmente, sono esattamente quelle che rispecchiano le esigenze della società. Questo è un istituto che sta avendo successo anche recentemente, mi è capitato appunto di fare atti di questo genere, perché essenzialmente è semplice e la gente ama le cose semplici. Ecco, infatti, no, tra l'altro è anche molto interessante questo ulteriore aspetto che adesso è emerso. Se lei mi dice che già monitorava questo fenomeno qualche anno fa, negli anni 80, quando ancora di questo plesso del Sole 24 Ore non c'era neanche la benché minima intenzione, di questo grande palazzo costruito qui in via Monterosa appunto da Renzo Piano, questo significa che magari con un largo anticipo si può monitorare in qualsiasi città quella che può essere un'area che si può sviluppare ed edificare appunto nel lungo periodo, e quindi magari fare un investimento anche in quest'ottica. Però insomma qui siamo andati un po' oltre con le nostre idee, direi, di prima di addentrarci nel dettaglio di questo istituto, come funziona, quali sono anche le precauzioni da prendere, quindi patti chiari, amicizia lunga da fissare con grande chiarezza all'inizio di questo, di ogni tipo di un contratto di questo tipo, sentirei anche già subito un ascoltatore a cui risponderemo dopo aver fatto la nostra prima pausa. Antonio da Caserta, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Tutti gli ascoltatori anche. Volevo chiedere se il venditore, al momento di defungere, lascia insolute delle rate di condominio di importo considerevole o delle imposte insolute, che cosa avviene? Magari lì è, come dire, già questo un tema legato a tutti i controlli da fare prima di fare tutto questo, però certo che se una casa si compra 20 anni prima e la persona diventa insolvente poco prima di venire a mancare. Antonio, comunque grazie per la sollecitazione, ci riflettiamo un attimo, facciamo la nostra prima pausa, io continuo ancora a sollecitarvi a chiamarci all'800 24 0024 per spiegarvi tutti i termini della nuda proprietà, ci sentiamo tra pochissimo. Eccoci ritrovati in diretta, oggi a Salvadanaio, prendendo a spunto il risultato di un'indagine del portale immobiliare.it, facciamo così chiarezza sul funzionamento di un istituto che ci permette magari di fare un investimento nel settore immobiliare a prezzi ragionevoli, comunque a prezzi al di fuori dei canoni di mercato attuali, che non sono proprio l'insegna del risparmio ancora nel nostro paese, pur essendoci molte zone che hanno visto una discesa dei prezzi negli ultimi tempi. Allora parliamo della nuda proprietà, che permette di risolvere magari qualche problema finanziario alle persone che vogliono vendere l'immobile e permettono di fare un buon investimento magari a famiglie appunto che non hanno l'esigenza di comprare una casa per andarci ad abitare immediatamente, ma magari fanno in questi investimento appunto a prezzi ragionevoli, sicuramente più convenienti rispetto all'andamento generale del mercato, magari per i propri figli, per i propri nipoti. Però come funziona, quali sono le regole da mettere bene in chiaro all'inizio di questo rapporto, prima della firma del rogito? 800 24 0024 numero verde per le vostre domande. Notaio Noto, torno da lei, prima magari rispondiamo alle domande del nostro ascoltatore di Caserta e poi facciamo un po' di ABC sulla nuda proprietà. L'ascoltatore chiedeva: che cosa succede se una volta che un acquirente ha acquisito appunto una nuda proprietà di un immobile scopre poco prima oppure quando la persona che abita ovviamente passa miglior vita che questo ha lasciato un sacco di debiti, tipo rate di spese condominiali non versate o altre beghe finanziarie, insomma come ci si comporta, come si fa tra l'altro anche a monitorarle nel tempo, perché magari non è detto che non si possa controllare tutto prima. Dunque, la domanda dell'ascoltatore è interessante perché effettivamente chiarisce che tra nudo proprietario e usufruttuario va comunque mantenuto un contatto, perché le spese sono ripartite e anche se molte di esse sono a carico dell'usufruttuario, non mancano quelle a carico del nudo proprietario. Quindi il nudo proprietario non perde il contatto con l'amministratore condominiale. Va detto poi che la regola generale è quella prevista dalle disposizioni del codice, che prevede che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e all'anno precedente. Quindi in realtà il nudo proprietario, se tiene costantemente monitorato, al massimo si può trovare con la sorpresa, tra virgolette, di un anno o due sui debiti condominiali. Quindi non è che se io sono nudo proprietario di una casa l'usufruttuario può far quel che vuole, no. Posso comunque farmi una chiacchierata almeno con questo ogni anno e chiedergli di darmi dimostrazione del fatto che è in regola con tutte le spese che deve sostenere, quindi a cominciare da quelle condominiali. È comunque sempre l'usufruttuario che ha l'incarico delle spese condominiali, per esempio, oppure si può pattuire anche diversamente, notaio? Si può pattuire anche diversamente, però anche qui la regola del codice prevede che l'usufruttuario ha diritto a trarre i frutti, quindi gli affitti, per esempio, se la casa viene data in affitto, ma anche gli oneri, quindi paga le tasse sulla casa, eccetera. Quindi anche molte delle spese sono a carico suo. Allora, Carlo Giordano, noi stiamo dicendo, sulla base anche di quanto indicate voi nel risultato del vostro monitoraggio con immobiliare.it, che effettivamente questo è un tipo di investimento che permette a chi volesse guardarsi intorno e acquistare appunto un immobile con la nuda proprietà di risparmiare molto, e però insomma abbiamo solleticato ovviamente l'attenzione per molti ascoltatori, ma di quanto risparmio stiamo parlando? Allora io le faccio sentire una domanda di Nicola D'Ancona, poi vediamo anche come si fa a quantificare. Nicola, buongiorno. Buongiorno. La mia domanda è molto semplice, esatto, come si fa a quantificare un eventuale risparmio, quindi di sconto sul prezzo dell'immobile, prezzo di mercato, comunque il prezzo pattuito in base all'età? Non so se ci sono delle tabelle, un qualcosa, cioè fatto 100 al valore dell'immobile, una persona che ha 80 anni che vuole vendere la nuda proprietà rispetto a uno magari che ce n'ha 60 o diversamente. Certo, se ci Nicola. Sono delle tabelle che chiarificano questo qui, oppure se sta la contrattazione tra le persone, infatti, tra i due soggetti. Le famose trattative riservate, Nicola, grazie molte per averci chiamato. Allora, come dire, io tra l'altro Nicola non anconetano come me, ammettendo di voler fare un investimento in questa zona. Dottor Giordano, immobiliare.it, ho trovato l'immobile, c'è magari l'anziano che è disposto appunto a cedere questa abitazione, però mi fa un prezzo, ho un modo di capire se attraverso la nuda proprietà è un prezzo equo oppure posso spuntare qualcosa di meglio? Esiste una tabella di riferimento proposta dal Ministero delle Finanze, tabella che viene aggiornata in funzione dell'allungarsi della nostra vita media. E per dare un esempio sulla domanda di Antonio, per un anziano che vive in una casa che ha 80 anni, lo sconto che lui avrebbe, usando la tabella del Ministero delle Finanze, è del 25% rispetto al valore dell'immobile. Se invece lui ha solo 60 anni, lo sconto è molto più alto, perché ovviamente lui rimarrà nel mobile per un periodo molto più lungo, ed è addirittura del 60%. Io ne ho poco più di 40, se volessi vendere il mio immobile, abito a Milano, un bilocale di 50 metri quadri, insomma, quanto potrei far spuntare di sconto all'acquirente che è interessato al mio immobile? L'acquirente le chiederà almeno l'80% di sconto. Accidenti. Però insomma effettivamente sarebbe un buon investimento, però deve sopportare la pazienza che io possa stare lì dentro almeno altri 50 anni. C'è un aspetto vero, perché poi uno dice chi compra non ha nessuna idea di quando entrerà in possesso dell'immobile, che ovviamente è quello che sembra un po' il freno iniziale a questo modello di compravendita. Beh, innanzitutto c'è un aspetto significativo: tipicamente chi compra questo immobile non ne ha bisogno, perché se ne avesse bisogno non è la soluzione giusta, quindi lo fa più come in forma di investimento. Ma è anche vero che lui potrebbe tranquillamente 5-10 anni dopo rivenderlo. L'immobile si sarebbe valutato, perché l'usufruttuario sarà invecchiato, e di conseguenza lui bene o male ha una garanzia di quello che lui sta facendo. No, tra l'altro, notaio, noto, questo è un tipico istituto che, come dire, viene utilizzato particolarmente all'interno di determinati nuclei familiari, no? Che magari vogliono fare un passaggio immobiliare dai genitori ai figli senza fare un atto di vendita vero e proprio, e in qualche maniera si vuole anche lì andare a risparmio, no? Reciprocamente. Ma questo è una questione ancora diversa. Tra l'altro, la tabella alla quale accennava il dottor Giordano non tiene conto della differenza tra uomini e donne. I maligni maschilisti dicono che poiché le donne campano di più degli uomini, in realtà bisognerebbe chiedere uno sconto maggiore. Però in realtà, diciamo, nel passaggio generazionale c'è anche un risparmio fiscale, perché mentre una volta, al momento della unione, cosiddetto consolidamento dell'usufrutto, si pagava una tassa per l'appunto di consolidamento, ora invece si paga la tassa nel trasferimento della nuda proprietà e non si paga più al consolidamento dell'usufrutto. Quindi il risparmio, poco o tanto che sia, è certo, e quindi anche nel passaggio generazionale questo strumento viene utilizzato con un qualche vantaggio fiscale che ne agevola la diffusione. Ecco, e con quelle che ci ha indicato, notaio Noto, abbiamo esaurito tutto l'elenco delle tasse, delle imposte che vanno versate sull'istituto della nuda proprietà, perché c'è un ascoltatore che ce lo chiede al 349-238-6666. C'è una tassazione particolare sulla compravendita con la nuda proprietà? No, la tassazione è perfettamente identica, e anzi addirittura in molti casi è possibile chiedere l'agevolazione prima casa se l'acquisto è come prima casa, nel senso la prima volta che si acquista un immobile, e pertanto è ancora più conveniente per l'acquirente. Diciamo però che non c'è nessuna differenza particolare per il fatto che oggetto della vendita sia la nuda o la piena proprietà. Tanto è vero, qui rispondiamo anche ad un altro ascoltatore, magari Giordano, qui mi aiuta lei. Gigi chiede: è possibile accendere un mutuo per acquistare una nuda proprietà? Certo. Sì, assolutamente sì. Se si hanno i requisiti, l'importante è il proprio profilo creditizio, non tanto come viene acquistata la casa. Uno dei vantaggi attuali è che siccome l'acquisto ha un importo molto più basso rispetto al valore dell'immobile, l'accesso al mutuo è molto più facile. È molto più facile, naturalmente, sempre se si hanno, come ribadisco, tutte le dovute garanzie. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. Sentiamo quella di Sergio da Cremona. Sergio, si è distratto nel frattempo? Pronto. Eccoci. Può abbassare la radio, Sergio, gentilmente? Ecco, la mia domanda era questa: volendo intestare la mia proprietà ai figli, chiedevo se il passaggio di proprietà totale costa di più di solo dare la nuda proprietà. Ecco, volevo solo Allora, forse il passaggio di intestazione dal genitore al figlio ha una, come dire, caratteristica diversa. Aspetti un attimo, Sergio, che forse non ho ben interpretato voleva aggiungere qualcosa Giordano. il notaio l'ha già scoperto questo tema e in realtà il passaggio, l'utilizzo dell'istituto della nuova proprietà genera dei piccoli risparmi sicuramente rispetto a un passaggio della casa. Aspetti lì Sergio, notaio. Sì, allora, intanto quando si parla di passaggio forse sarebbe meglio distinguere se il passaggio è a titolo gratuito o oneroso. Perché molto spesso quando c'è il passaggio da padre a figlio, da madre a figlio, da genitori a figli, è un passaggio donativo. È ben possibile, come è noto, chiedere le agevolazioni prima casa anche nell'ambito delle donazioni, cosa che può essere fatta. Il vantaggio c'è, dipende dalla rendita catastale nella sua entità, perché naturalmente la tabella a cui faceva riferimento il dottor Giordano prima consente uno sconto che in questo caso va detratto dal valore di rendita catastale. Però se si ha l'intenzione di fare un'operazione di questo tipo forse vale la pena, adesso io sembrerà che porto acqua al mulino dei notai, però magari vale la pena prima farsi fare delle simulazioni, che cosa è meglio fare, se procedere con una vendita di un certo tipo oppure una donazione, appunto come ci spiegava prima il notaio, oppure fare il passaggio attraverso la nuda proprietà e quindi fare appunto una valutazione di convenienza economica rispetto alle alternative. Guardi, la valutazione è molto utile, la ringrazio di questo accenno, perché con le donazioni noi consigliamo sempre di andarci coi piedi di piombo, perché anche se non è oggetto di questa trasmissione, però vale la pena accennarne brevemente, è importante non dare al circuito economico un ostacolo, perché un immobile di provenienza donativa, se non sufficientemente inserito in un programma dispositivo, rischia di creare poi un problema ai fini della commerciabilità, mentre la vendita questo problema non ce l'ha. Quindi il consiglio del notaio può essere anche sullo strumento di passaggio, se vendita o donazione. Allora, abbiamo ancora un minutino e mezzo di tempo prima di andare ai suggerimenti per chi è in viaggio. Carlo Giordano, dove transitano più immobili compravenduti con l'istituto della nuda proprietà? Ho formulato correttamente la domanda, che mi vengono i dubbi tutte le volte che parlo stamattina. È assolutamente corretto, perché in realtà l'offerta è trasversale, quindi non possiamo dire che c'è una percentuale di offerta maggiore in alcune aree d'Italia, però le compravendite reali si concentrano nelle zone metropolitane, perché è dove si concentrano gli investitori. È ovviamente molto più facile pensare che un immobile comprato per investimento sia in una zona urbana che non al di fuori. Il vecchietto che avete preso a spunto per elaborare poi la vostra inchiesta in maniera più complessiva ha poi venduto il suo immobile, che le risulti? Dopo un mese ha tolto l'annuncio, ci ha ripensato in un gesto scaramantico che non era il caso, oppure evidentemente ha risolto la sua necessità. Benissimo. Ed eccoci ritrovati alla nuda proprietà, ho abbassato tutto la cuffia qua, non sento niente. Allora, vediamo un po', Massimiliano da Cesenatico ci scrive: se il venditore si riserva il diritto di abitazione invece di usufrutto, cosa cambia per il pagamento ICI? Oh santo cielo, notaio noto, ha seguito il percorso del nostro ascoltatore Rivierasco? Sì, mi pare che sia la stessa cosa. Ai fini fiscali l'uso di abitazione vengono considerati alla stessa stregua dell'usufrutto. Allora, volendo un domani la persona che l'aveva annullare, la nuda proprietà, cosa si va incontro? Cioè, una volta che è stato fatto l'acquisto attraverso la nuda proprietà si vuole annullare la persona che evidentemente ha concesso l'usufrutto, non so se si può ritornare indietro dalla nuova situazione che si è creata, notaio noto. Adesso sono delle domande veramente stamattina un po' particolari, che vogliono esplorare uno scenario, diciamo, che è anche piuttosto raro, no? Però ma è giusto, l'utilità di trasmissioni come questa è proprio questa, che offre uno spettro di argomenti. Evidentemente Antonio ha la tentazione di vendersi la casa con la nuda proprietà, però dice: ma se io tra 3 anni ci ripenso, perché così sto ottimamente di salute e ho intenzione di campare altri 30 anni, ma per quale motivo mi voglio vincolare in questo modo? Che cosa può fare per tornare indietro? Guardi, si può fare tutto. Si può sia ricostituire la proprietà in un senso, nel senso rinunciando all'usufrutto o cedendo l'usufrutto e quindi ricomponendo la proprietà verso il nudo proprietario che diventa pieno proprietario, oppure ricomponendolo in capo all'usufruttuario, cioè con una cessione della nuda proprietà. Vanno tenuto conto di 2 fattori. Uno, che con l'andare del tempo la quota di riferimento nella percentuale tra usufrutto e nuda proprietà cambiano, perché l'usufrutto perde valore con l'aumentare e invece la nuda proprietà lo aumenta, quindi la base imponibile col passare del tempo non è uguale, cala nell'usufrutto, aumenta nella nuda proprietà. Va detto poi una piccola cosa che forse qualche ascoltatore ha segnalato. Se il vecchietto di riferimento, come simpaticamente l'abbiamo definito prima, di 85 anni, dopo un anno cede il suo usufrutto, perché l'usufrutto è sempre cedibile, il compratore nudo proprietario può stare rassicurato, in quanto l'usufrutto vitalizio è calcolato sulla vita del cedente. Ah, quindi lui non potrebbe cedere l'usufrutto ad un quarantenne che poi rischia di stare gli altri 25 anni. Si vanifica tutto il principio ovviamente dell'istituto, certo. Esatto, quindi in che termini si può fare questo passaggio? Quindi l'usufruttuario, se per dire va a vivere da un'altra parte, può cedere il suo usufrutto. Però nel momento in cui lui passa miglior vita, la casa è sempre di chi l'ha comprata. È certo. Benissimo. Questo è molto importante, certo, perché è uno dei motivi per i quali invece il nudo proprietario spesso ha delle remore a comprare, ma da questo punto di vista può stare al sicuro. Assolutamente tranquillo. Carlo, Giordano voleva precisare qualcosa. Da aggiungere un punto di attenzione che tipicamente viene risolto nell'aspetto iniziale, non lasciare a chi ha l'usufrutto la possibilità di locare l'immobile negli anni successivi, non tanto perché la rendita andrebbe trasferita a chi possiede la nuda proprietà, però ovviamente si allunga il periodo in cui tu entri in possesso dell'immobile. Quindi dico, o mantenere un diritto di prelazione, quindi nel momento che lui volesse decidere di affittare, io proprietario affitto come diritto, oppure toglierlo dall'accordo. Allora andiamo adesso, dunque, chi è che stava aspettando da un po'? Sì, Mirko da Padova, perché l'avevamo preannunciato. Mirko, buona giornata. Buongiorno e complimenti per la vostra trasmissione. Grazie Mirko. Volevo chiederle, io il fare di acquisto della nuda proprietà è consigliabile, oppure se ci sono garanzie nel caso in cui ci fosse un guasto elettrico e la casa prendesse fuoco, è consigliabile effettuare un'assicurazione oppure ci sono delle garanzie specifiche? Ma sa, lì io Mirko credo che tutto questo attenga un po' anche alle scelte della sfera personale, quanto proteggere la propria abitazione a prescindere dalla modalità con cui si sia acquistata. Non so se qui valgono più che delle regole fisse relative all'istituto della nuda proprietà piuttosto che delle regole di buonsenso. Carlo Giordano vuole darci due suggerimenti su questo. Condivido il punto. Ovviamente vale il ragionamento vale già per la nostra abitazione, vale per qualunque abitazione di cui ne abbiamo la proprietà o il possesso, e lo consiglierei. Il costo di una polizza sui rischi della casa è molto bassa rispetto al valore assicurato, proprio perché è un rischio non ricorrente, quindi per un vivere sereno lo consiglio. Allora andiamo un po' a sentire Sonia da Milano. Sonia, buongiorno. Buongiorno, forse avete già risposto parzialmente. Ripetiamo senza problemi, Sonia, non c'è problema. Per la residenza del usufruttuario, sì, è obbligatoria o lui può subaffittare a sua volta, cioè affittare la casa ecco, a sua volta? Sentiamo, Sonia, sentiamo il notaio. Notaio Noto. No, la residenza non è obbligatoria, nel senso che l'usufruttuario, come ripeto, potrebbe anche trasferirsi altrove e locare l'immobile. Però è molto giusto il consiglio che ha dato il dottor Giordano. Attenzione, perché soprattutto se si parla di una persona anziana, una locazione cui termini possono essere anche un 4 più 4 anni, di fatto impedisce il rilascio immediato del immobile da parte del locatario, il quale ha acquisito un diritto da chi ne aveva la disponibilità. Quindi mentre il diritto dell'acquirente dell'usufrutto cessa con la morte del primo usufruttuario, il diritto del locatario no, cessa, questo resta dentro in casa, e ora che lo si sbatte fuori, se uno ha necessità. Non poteva essere più chiaro, notaio. Detto questo, come sempre, i patti chiari e amicizia lunga si possono fissare anche in un'eventualità di questo tipo, come quella disegnata appunto da Sonia, mi sembra. Eh sì, senz'altro. Però, ogni caso, la residenza da parte dell'usufruttuario, giusto per ripetere, non è obbligatoria. Chi sentiamo adesso? Maria Giovanna da Cuneo, poi stiamo già scivolando verso la fine della trasmissione. Maria Giovanna, buongiorno. Buongiorno. Ancora tre minutini ce li abbiamo, sì. Buongiorno. Senta, io sono proprietaria della nuda proprietà. Sì. Dentro la casa c'è la mia mamma, che ha l'usufrutto gratuito. Nonna, io adesso purtroppo, lei è a Torino, io sono a Cuneo. Io adesso però mi trovo nella necessità di dover vendere questa casa e per acquistarne poi un'altra dove io vorrei andarci poi ad abitare. Come posso fare per non certo che è la mia mamma, non vorrei neanche buttarla in mezzo alla strada, ecco, capisce? cosa potrei fare? Maria Giovanna, allora, o portarla a vivere con lei nella nuova casa che vuole acquistare, la compra più grande magari, ma adesso qui sto ovviamente facendo anche dei commenti che non ho nessun diritto di fare. Detto questo, come poter risolvere al meglio la situazione? Notaio, cosa suggerirebbe se questa persona venisse a fare una chiacchierata con lei? Perché qui dipende intanto al destino che si vuole dare alla mamma, perché la casa si può vendere molto rapidamente. La mamma può stare tranquilla, dormire sonni tranquilli, perché se ha l'usufrutto vitalizio nessuno la può spostare. Quindi può vendere questa casa sulla quale già c'è una nuda proprietà. Perfetto. Ah, ecco, quindi in questo senso si può rassicurare, sì, Maria Giovanna. No, non avevo capito che tipo di dubbi avesse. Si può tranquillamente trasferire ad un altro acquirente la nuda proprietà e la mamma è usufruttuaria fino a quando proprio appunto quello che sarà... dicevamo prima, cioè il vantaggio di questa nuda proprietà, in effetti, e la semplicità, che è un po' il segreto del suo successo, è che consente una circolazione nel circuito economico molto comoda del bene, e trovando anche un segmento di acquirenti molto vasto, anche in casi come questo, che sembrerebbero apparentemente problematici. Tra l'altro l'ascoltatrice ha citato proprio questo termine, usufrutto gratuito per la mamma. Quando invece è oneroso, come si fa a stabilire quanto deve essere versato dall'usufruttuario? Magari qui mi può venire incontro Giordano, bisogna stabilire anche lì, che ne so, prezzi di mercato, equivale l'usufrutto ad un affitto, ad un canone d'affitto, sì, o non è detto? La nuda proprietà prevede l'usufrutto gratuito, io che vendo l'immobile trattengo l'utilizzo dell'immobile. Quindi noto, non esistono casi in cui una nuda proprietà abbia anche un usufruttuario che versi qualche quota, quindi ci può essere un usufrutto a titolo oneroso? No. È corretto quello che ha detto il dottor Giordano. Sì. Perché... stava sudando, c'aveva una perla di sudore in questo momento sulla fronte, perché temeva di aver detto una cosa errata. Noi dobbiamo immaginare il diritto di proprietà quasi l'una, diciamo come una torta, di cui togliamo semplicemente una fetta, ma sempre una fetta della stessa torta, quindi l'usufrutto non può portare a un esborso economico in quanto in capo all'usufruttuario, il quale semplicemente cede una fetta della stessa torta. Benissimo, allora sono arrivate tantissime telefonate, vi prometto che rifaremo presto una trasmissione su questo tema. Io già immagino invece chissà che boom di accessi avrà immobiliare.it. in bocca al lupo per tutte le vostre inchieste sempre molto interessanti che fate. Volevo solamente dire un'ultima cosa a un ascoltatore che ci dite: ma perché non dite che il calo della borsa di oggi è determinato dallo stacco dei dividendi? Sono 4 le società che staccano i dividendi. Non credo proprio che questo meno 3,39% sia imputabile a questo evento, che varrà, secondo così, a occhio lo 0,3-0,4%. Quindi Milano perderà al massimo quanto le altre borse europee, ma perde il 3%. Grazie a Carlo Giordano, Gabriele Noto per essere stati con noi. Salvadanaio torna domani. Buona giornata a tutti.